9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come si diceva, siamo a 2 giorni dal voto, sostanzialmente 3 giorni insomma dal voto, e vogliamo tornare ad occuparci di un tema concreto che è, nella fattispecie, quello della sanità. Prendiamo spunto da una proposta arrivata ieri dal leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, che è quella di abolire il ticket sulle visite specialistiche. Lo ricorderete, giusto per chiarire, per evitare che poi insomma si alzi qualche polemica, facemmo una puntata anche all'indomani della proposta sulla restituzione dell'IMU, quindi l'equilibrio, direi, da questo lato è rispettato. E però affonderemo il coltello in quella che per molti è la vera piaga del federalismo all'italiana, il vero pezzo mal riuscito, uno dei capitoli di spesa pubblica più problematici, che è esattamente quello della sanità. Si citava prima il dato sulla spesa sanitaria, appunto, ossia che dal 1998 al 2008 questa è raddoppiata, passando, andiamo insomma spannometricamente, da 50 miliardi a 100 miliardi circa. Ci dite via Twitter con l'hashtag 9 in punto, detta così è solo aumento della spesa pubblica, la sanità non è salute, però fa PIL nelle regioni. Si fa PIL, ma fa anche inchieste, mala gestione, commissariamenti, quindi il problema c'è e va analizzato. Ignazio Marino, senatore del Partito Democratico, non solo, anche presidente della Commissione parlamentare inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori. E buongiorno a Luca Antonini, docente di diritto costituzionale, Università di Padova, autore del libro Federalismo all'italiana, dietro le quinte della grande incompiuta, appunto, nel quale c'è proprio un capitolo dedicato alla sanità. Buongiorno Antonini. Buongiorno, buongiorno. Marino, partirei dalla vostra proposta, la proposta del Partito Democratico, e voglio capire da dove cavate fuori questi soldi per abolire il ticket sulla specialistica, posto che poi è una roba di competenza regionale. Prego. Ma deriva dall'analisi rigorosa fatta dalla Commissione di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale che ho presieduto in questi 5 anni. Noi abbiamo chiamato i magistrati della Corte dei Conti, i quali ci hanno dimostrato come nel Servizio Sanitario Nazionale ci sia una somma relativamente piccola in percentuale, perché in percentuale è solo lo 0,7% del Fondo Sanitario Nazionale, ma direi piuttosto ampia in termini, in valori assoluti, sono 790 milioni di euro che vengono spesi in consulenze esterne, consulenze che spesso la Corte dei Conti ha dichiarato come illegittimi conferimenti di incarichi professionali per attività che dovrebbero essere svolti da dipendenti dell'ospedale o dell'azienda sanitaria. Pensi che in alcune regioni sono stati riscontrati dalla Corte dei Conti diversi incarichi a giornalisti per curare la rassegna stampa, tenere pubbliche relazioni e poi al termine dell'attività svolta non è risultata neanche una documentazione che dimostri un'evidenza per dimostrare il lavoro che è stato fatto. Insomma, noi pensiamo che 790 milioni di euro potrebbero essere cancellati, sono sprechi inutili, e dal momento che il Ministero dell'Economia valuta che il costo per gli italiani del ticket sulla specialistica, quel ticket di 10 euro, venga in totale a costituire una somma di 834 milioni di euro, tra 790 e 834 la distanza non è molto vasta, e probabilmente sarebbe saggio eliminare questo spreco delle consulenze evitare il pagamento del ticket, che è davvero un'odiosa tassa sulla salute, perché il ticket, tutti lo sanno, non lo paga chi è più ricco, lo paga chi è più ammalato. Sì, io gliela dico molto brutale, Marino, nel leggere la proposta ieri alcuni hanno pensato e hanno anche scritto è un po' la versione di Bersani della restituzione dell'IMU, cioè siamo in una situazione, mi scusi, quello che dico è che siamo in una situazione che abbiamo solamente accennato e che poi approfondiremo nel corso della diretta anche col professor Antonini. Siamo in una situazione nella quale appunto la spesa sanitaria è oggettivamente esplosa, ci sono delle questioni di fondo da risolvere evidentemente, e da un po' l'idea di un'idea spot, no? Da campagna elettorale, quando invece c'è bisogno di agire un po' più a fondo su quello che è il nostro sistema sanitario, non solo nazionale ma anche regionale ovviamente. Ma a me piace molto la sua brutalità, perché mi permette di spiegare che questo calcolo è il frutto del lavoro di 5 anni di una commissione parlamentare di inchiesta ed è pubblicato già da tempo, dall'inizio del 2013, sul sito istituzionale del Senato della Repubblica. Sono calcoli fatti dalla Corte dei Conti e che appunto, siccome credo ci sono anche in politica delle persone che sono abituate a studiare, a ragionare e anche a far di conto, bene, e credo che il momento del confronto elettorale sia anche il momento di spiegare quali sono le proposte, e la sanità davvero è una delle aree strategiche che più interessano agli italiani, e in questo momento ci sono delle proposte in campo che sono differenti. Ci sono alcuni partiti diversi dal Partito Democratico che vorrebbero delle forme di assistenza integrativa, andare verso le assicurazioni private, altri che vorrebbero una maggiore partecipazione dell'imprenditoria privata. Noi pensiamo che si può razionalizzare la spesa sanitaria, si possono evitare gli sprechi, questo del ticket recuperato attraverso le consulenze inutili è solo uno dei tanti esempi, e pensiamo che la sanità debba rimanere pubblica con l'accesso alle cure uguale per tutti nel momento della malattia. Sì, io le dico in tutta sincerità, poi magari su questo tema ci torniamo, visto che molto spesso ne parliamo, io so che non stiamo parlando della stessa questione, della stessa partita, e però francamente se riuscissi a sbloccare 760 milioni inizierei a pagare i debiti che le ASL hanno con gli imprenditori in sofferenza. Però magari su questo ci torniamo, perché questa è un'altra questione che riguarda intimamente le vicende sanitarie e riguarda anche la situazione delle nostre imprese. Antonini, qualche osservazione su questa impostazione? Antonini? Sì, eccomi, scusi. No, la questione è questa. Io ho letto la relazione della Commissione, effettivamente parla di questi circa 800 milioni che sono l'equivalente del ticket che viene pagato dagli italiani. Il problema però è uno, che è difficile questa operazione, perché l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni impedisce di tagliare in modo mirato. Cioè, secondo quanto dice la Corte Costituzionale, tu non puoi tagliare una singola voce, devi tagliare dando un obiettivo generale, puoi entrare nel dettaglio. Quindi se uscisse domani un decreto legge che dice sono tagliate le consulenze per 800 milioni e questi soldi si spostano sul ticket, questo verrebbe dichiarato incostituzionale. Perché tu puoi dare un obiettivo generale alla regione, ma non puoi dirgli dove deve tagliare. Allora io credo che la soluzione rispetto a questo problema sia quella dei costi standard. Allora, i costi standard sono stati previsti, c'è un decreto legislativo che li disciplina, questi vanno finalmente definiti, perché è questo, io do un target alla regione preciso, gli do degli obiettivi fissati, e questo permette di razionalizzare la spesa. Teniamo conto che poi sui ticket, se non sbaglio, c'è un'altra mannaia che sta arrivando, perché dal 2014 mi sembra ci sono altri 2 miliardi di euro che devono essere coperti con ticket a carico dei cittadini. E questo è un punto che richiede appunto che la questione venga affrontata seriamente. Allora, noi nella sanità in Italia abbiamo il peggio e il meglio del mondo e abbiamo fatto degli errori clamorosi. Io l'altro giorno ero in taxi e mentre stavo andando a destinazione il tassista sente un candidato che viene dal Consiglio regionale del Lazio e dice che ha governato benissimo eccetera, per questo si ricandida. Il tassista stacca la radio in quel momento e caccia un baffa, no? Dicendo: ma ha ragione, ha senso che noi andiamo a riempire di nuovo quel consiglio regionale del Lazio da dove sono usciti i Fiorito e tra quegli scandali allucinanti che hanno indignato tutti noi? Ma in quel caso abbiamo una sanità che ha un buco miliardario che viene tramandato da governatori di destra e di sinistra. Quando abbiamo fatto dei commissari ci abbiamo messo i presidenti della regione, noi abbiamo avuto Storace, la Polverini, presidenti, commissari della sanità del Lazio, cioè quelli che avevano creato il buco, sono diventati, Marrazzo anche, sono diventati commissari, cioè avevano poteri speciali, gli avevano dato praticamente la licenza di uccidere. Io credo che ci sia da fare un ragionamento a livello costituzionale. Come diceva lei, quella spesa sanitaria è andata in fuori controllo soprattutto in certe regioni. Allora bisogna prendere atto che in questi casi l'unica soluzione è un commissario, perché bisogna affrontare senza guardare in faccia a nessuno i veri problemi. Ad esempio a Roma c'è l'Umberto I che ha un primario ogni 4 posti letto, quando la media è 1 a 12 a livello nazionale. Allora, o ci vuole qualcuno che affronta queste rendite, senza contare i famosi piccoli ospedali, dei quali tra l'altro lei racconta nel suo libro, che la cui chiusura genera sempre proteste, ma ci sono posti dove ci sono 10 persone per ogni posto letto, una cosa incredibile. Magari un altro piccolo ospedale, 8 cuochi e la mensa esternalizzata, per dirla. Allora, io nel libro faccio la radiografia del sistema, perché comunque 4 anni di lavoro su questo tema mi hanno permesso di acquisire dati che io so che in Italia sappiamo in pochi, 30-40 persone. Io ho voluto che lo sapessero tutti. Sto libro, 10 giorni alla seconda edizione invece, quindi vuol dire che la gente comincia a capire dove stanno i problemi e è molto attenta a capire veramente qual è la situazione del nostro paese. Io dico: allora, o tu affronti questi problemi di ristrutturazione in quelle che chiamo nel libro le regioni canaglia, perché sono quelle che creano il buco insanabile, che creano appunto l'ospedale piccolo che non viene chiuso perché serve a coprire clientele, e dove poi c'è i servizi pessimi, perché all'Umberto I nasceva l'Umberto I il caso di quella donna che è rimasta per settimane in una barella, no? È indignato anche quello tutti gli italiani, ma quella era la punta dell'iceberg. Allora, se noi continuiamo a tagliare le punte dell'iceberg, l'iceberg ritorna su, cioè non affrontiamo il problema, noi tagliamo il rametto, qui bisogna disboscare la foresta in certe situazioni, cioè in certe situazioni devi usare la linea forte. La mannaia. Voglio sentire qualche ascoltatore, la fermo. Professore Riccardo, che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Allora, due considerazioni. Ha ragione il professore, ci sono sprechi, piccoli ospedali, però non raccontiamoci troppe frottole. I piccoli ospedali sono uno spreco perché curano poco e male, non perché hanno dei grandi costi. Si pensi che il San Camillo, che non è un piccolo ospedale di Roma, ha 1000 letti, l'anno scorso ha fatto 182 milioni di disavanzo in un anno, è spropositato. I primi 7 ospedali romani da soli fanno circa 700 milioni di disavanzo, altro che piccoli ospedali, è lì il vero disavanzo. Seconda considerazione sui ticket e i tagli di cui parlava l'onorevole Marino. Sono d'accordo, anche se capisco le difficoltà realizzative, ma siamo in campagna elettorale, ciascuno racconta un po' le frottole che vuole, che si devono tagliare le consulenze. Sulla questione dei ticket, abolire i ticket non serve assolutamente a nulla, si aumenta solo il disavanzo, perché i ticket sono già dai ticket sono già esclusi per patologia e per reddito i cittadini più deboli, quindi sono ben pochi quelli che li pagano e sono le fasce che se lo possono permettere. Continuare a fare demagogia mi sembra non serva né a destra né a sinistra. Chiudo dicendo che sono iscritto al PD e che il mio partito faccia una proposta di questo genere mi sembra imbarazzante. Grazie Riccardo. Osservazioni di Riccardo, le osservazioni di Antonini e anche quella che ci arriva via Twitter, l'hashtag 9 in punto, da Marcello, che dice: così riavremo fiumi di analisi inutili pagate dalle regioni a 34 euro anziché al prezzo di mercato di 30 euro. Allora Marino, Mi risponda il più brevemente possibile a queste tre osservazioni, quella sull'incostituzionalità, quella di Riccardo appunto da Roma, che dice che i ticket li pagano solo coloro che non sono esenti e sono una fascia in realtà piuttosto minoritaria della popolazione, e poi quella di Marcello appunto dice che così rischia di riesplodere la spesa per le analisi inutili. Prego. Non è una fascia minoritaria della popolazione, e coloro che pagano i ticket hanno mediamente pagato 99 euro in più per l'assistenza sanitaria. In più il ticket sposta il finanziamento della sanità dal pubblico al privato, perché spesso cosa accade? Che con il ticket aggiuntivo sulla specialistica un esame, non so, la mammografia, costa poco di più nel privato rispetto all'offerta del pubblico, quindi le persone si spostano verso il privato, che in alcuni casi ha dei tempi di risposta più rapidi, e questo in generale va a indebolire ulteriormente il finanziamento del servizio sanitario pubblico. Il pubblico è importante perché ci sono delle prestazioni che il privato evidentemente non fa, che sono salvavita e che debbono avere un finanziamento complessivo che rende quelle strutture, quelle divisioni chirurgiche, quelle rianimazioni in grado di operare. E poi davvero bisogna anche essere concreti sui numeri. Spendiamo troppo o spendiamo poco per la sanità? Beh, c'è un'organizzazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che verifica quanto investe ogni paese in spesa sanitaria pubblica. L'Italia investe $2,359 per persona, la Francia 3.061, la Germania 3.331. È evidente che ci sono visioni diverse, ma nelle visioni diverse si può trovare un percorso che protegga il servizio sanitario nazionale, appunto come accesso alle cure aperto a tutti. Penso che ad esempio la revisione, noi lo abbiamo proposto e non so se anche questa viene considerata una proposta sbagliata dai nostri interlocutori, ma il Partito Democratico, io ne sono stato il primo firmatario e adesso è legge dello Stato, ha inserito un articolo nella finanziaria di quest'anno che obbliga le aziende sanitarie a rendere trasparenti e pubblicarli sul sito di internet i costi unitari di acquisto dei materiali. Cosa significa? Significa che una protesi d'anca in materiale ceramico così preziosa per restituire una buona qualità di vita attraverso un intervento di chirurgia ortopedica a una persona, bene, quella protesi in alcuni ospedali viene acquistata a 284 euro, in altri a 2.575 euro, una differenza dell'800%. Sì. Allora noi crediamo che trasparenza nell'acquisto del materiale sia una strada assolutamente da percorrere e che eliminerà altri sprechi che sono davvero miliardari. 9 in punto. Sentiamo Maurizio che ci chiama dalla provincia di Rieti. Buongiorno. Buongiorno, io sono un medico, sono anche per un sindacato di medici, ovviamente questa è la mia posizione che esprimo all'interno del sindacato, nella posizione del sindacato. Ho ascoltato molti interessi, gli interventi, sono d'accordo col senatore Marino, con gli altri. Il problema del nostro sistema, secondo me, è che non può essere definito un sistema pubblico perché non è equo. Abbiamo differenze da regione a regione, quindi i cittadini non hanno, e su questo si deve intervenire, sarebbe troppo lungo. Ci vorrebbe una giornata per dire. Io penso che bisogna ristabilire intanto riformare anche la professione medica, perché il medico del servizio pubblico deve lavorare nel servizio pubblico a tempo pieno, con stipendi ovviamente adeguati alla sua posizione, ed evitare questa duplice professionalità che poi porta ad un conflitto di interessi tra la medicina pubblica e la medicina privata. E in secondo luogo, alcuni dei controlli fondamentali, come quello della spesa, debbono essere riaccentrati al Ministero, secondo me. Grazie. Grazie Maurizio. Io prima di tornare da Antonini voglio che Marino gli risponda sul tema della costituzionalità dell'ipotesi che avete lanciato. Marino. Ma certamente il professor Antonini ha ragione, nel senso che tecnicamente non si può scrivere una norma che entri nella gestione diretta della sanità da parte delle regioni. Però è possibile scrivere, come è stato fatto per altre materie, una norma di indirizzo che chieda alle regioni di evitare e di documentare con precisione ogni spesa iscritta in bilancio. Tra l'altro penso che il professor Antonini sarà d'accordo sul fatto che dal 2013 dovrebbero essere certificati i bilanci delle nostre aziende sanitarie, e così si responsabilizzeranno i presidenti di regione, perché alcuni costi che sono documentati dalla Corte dei Conti e che sono ingiustificati diventeranno trasparenti. È proprio di ieri la dichiarazione del procuratore regionale, per tornare a un esempio che ha fatto il professor Antonini. Il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, ha affermato ieri che nella ASL, nell'azienda sanitaria di Frosinone, il ricorso alle prestazioni aggiuntive, quelle di cui parlavo io, che appunto dovrebbero essere eliminati, ha raggiunto, lo dice la Corte dei Conti, dimensioni abnormi. L'importo pagato per l'acquisto di tali prestazioni aggiuntive è stato pari nel totale a 51 milioni e 700 mila euro. Insomma, è evidente che un atto di indirizzo nazionale e poi la trasparenza regionale correggerà molti di questi sprechi, che sono davvero ingiustificati, perché sono soldi delle tasse dei cittadini che dovrebbero essere destinati al servizio sanitario e non a spese inutili. Sentiamo Giorgio che ci chiama da Cuneo, dalla provincia di Cuneo. Buongiorno. Breve, buongiorno. Mi raccomando. Sì, cercheremo. Il senatore Marino ha fatto un calcolo su quanto può costare l'abolizione del ticket e come venga ripianato da risparmi in altri settori, va benissimo. Però è stato calcolato quanto può aumentare la spesa sanitaria per l'indotto di prestazioni inutili che l'abolizione del ticket andrà a generare? Perché il senso civico degli italiani, ricordiamoci, che è pari a zero. Io le faccio un esempio: io faccio il medico di famiglia e sono convinto di buttare via dalla finestra 1000 euro al giorno. Fatto un breve calcolo e moltiplicatelo per tutti i giorni della settimana e per tutti i medici di famiglia d'Italia, poi vedremo che cifra andiamo a raggiungere. Secondo me il ticket non va abolito, ma va tutto al più triplicato. Grazie Giorgio, sentiamo anche Fausto che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Fausto. Senta, buongiorno. Io volevo intervenire sul fatto dei ticket. A parte il fatto che i ticket sia per la popolazione che ha patologie o che ha problemi di reddito oppure in cassa integrazione, è già a zero. Chi lo paga è chi ha, e parlo sempre delle prestazioni ambulatoriali, non sulla degenza, lo paga solamente chi ha 38.000 euro di reddito. Dunque l'abolizione del ticket non porterebbe niente. Volevo fare un appunto su un'altra cosa, sulla spending review che ha fatto il presidente Monti, che ha portato alla riduzione dell'1,2 o dell'1,5% della spesa. Ma il presidente Monti non ha abbassato la spesa, ha abbassato la spesa riducendo il budget per le prestazioni rese ai pazienti, non andando ad intaccare quelli che sono gli sprechi della sanità, come diceva il senatore Marina prima, che un'anca può costare tot oppure può costare tot in un'altra regione. Questo è il problema. Se cominciassero ad abbassare alcune, finisco? Capisco? Sì, prego, prego. Perché se cominciassero ad abbassare alcune remunerazioni dei grandi dirigenti dell'azienda, le cose cambierebbero. Altra ultima cosa e chiudo: cominciassero a far funzionare gli ospedali 12 ore al giorno, dalle 8 della mattina alle 8 della sera, separando le carriere, come diceva l'interlocutore medico prima, tra i medici statali e i medici privati, e le cose cambierebbero. Grazie Fausto per le sue valutazioni. Insomma, Antonini, mi sembra che stiamo entrando in quello che poi è il vero tema, e ce lo fanno notare molti ascoltatori, che è naturalmente quello dei famosi costi standard, che io sinceramente su questa cosa divento pazzo, perché non riesco a capire come siano anni che parliamo di questa cosa e non, banalmente non siamo riusciti a farla. Insomma, a me che sono un cittadino la cosa mi sembrerebbe abbastanza semplice, però poi apprendo dal suo libro che ci sono regioni che non hanno nemmeno una contabilità della sanità sostanzialmente, quindi immagino debba essere una cosa incredibile la questione dei costi standard. E dall'altra parte, da dove nascono quelle protesi all'anca delle quali ci parlava Marino, che costano molto di più? Nascono probabilmente da giri di favori, nomine politiche nella sanità e compagnia cantante, tutto quello che vediamo nelle inchieste delle quali leggiamo quotidianamente. No, senz'altro, per quello che io dico, quando tu hai degli indici di disavanzo forti, l'unico sistema è un commissario esterno. L'unico modo con cui tu sistemi queste cose è bypassi tutta questa pletora di clientelismo fatta sulla pelle della gente. Sono molto d'accordo con Marino sull'esigenza della trasparenza, questo è sacrosanto, ma proprio a questo servirebbero questi famosi costi standard, in cui tutto è pronto, però ancora, anche se so che i lavori stanno andando avanti, però io mi auguro veramente che nella prossima legislatura si arrivi a questo, che è un punto fermo assolutamente fondamentale. Poi però Marino parlava anche delle certificazioni dei bilanci. Certo che la certificazione implica però anche quella una consulenza esterna, perché ci sono varie società di revisione che adesso si stanno proponendo in giro per certificare questi bilanci. Giustamente, perché allora, perché il bilancio non te lo puoi certificare da solo, se no insomma siamo buoni quindi tutti. Quindi anche qui su questo qualche riserva io ce l'avrei, anche vedendo che certe magari società certificate poi erano Lehman Brothers eccetera eccetera, no? Per cui secondo me c'è un problema di fondo. Per esempio, io direi agli ascoltatori, ma chi lo sa come viene finanziata la sanità? Chi lo sa che il 51% dell'IVA finanzia la sanità ormai? Quindi io, quando io compro qualsiasi oggetto in cui si applica l'IVA, metà di quello va a finanziare la sanità. Non lo sanno, è un sistema assolutamente deresponsabilizzante questo, è una specie di compartecipazione bancomat con cui viene finanziata la sanità. Allora, secondo me bisogna rivedere il sistema e la revisione deve essere una revisione proprio profonda. Io credo che ci sia necessario ripensare radicalmente il titolo quinto, occorre un intervento a livello costituzionale. Questo l'abbiamo proposto, abbiamo presentato anche una petizione con Raffaele Bonanni e altri firmatari per andare in questa direzione, perché così il sistema è ingestibile. In Italia, ha ragione Marino, la spesa sanitaria non è altissima, però abbiamo il peggio e il meglio del mondo, abbiamo alcuni modelli che sono modelli mondiali addirittura, però abbiamo anche il peggio del mondo. Allora, in una situazione di questo tipo bisogna decidere a livello costituzionale come si governa, altrimenti appunto certe cose non le potremmo fare, perché ci sarà la Costituzione, così come risulta dal titolo quinto, che è ingestibile, che impedisce di intervenire e di razionalizzare là dove si deve razionalizzare. Quindi quello che dico, in un contesto di questo tipo, dove poi è vero che la spesa sanitaria è minore rispetto ad altri paesi OCSE e la qualità complessivamente alta in Italia, però teniamo anche conto che abbiamo tutto un sistema estremamente frammentato, per cui alcune competenze, per esempio, le gestisce l'INPS sul sistema sociosanitario, pensioni di invalidità, eccetera. Hai delle zone di sovrapposizione in cui alla spesa sanitaria devi aggiungere anche un altri parecchi miliardi di euro che arrivano da altri soggetti che gestiscono la spesa sanitaria. Penso all'INPS per tutto il campo, per esempio, dell'invalidità, penso ai comuni che hanno competenza anche loro in materia di servizi sociali e tante volte arrivano in sovrapposizione. Abbiamo un sistema che è frammentato fra tre soggetti, INPS, regioni e comuni. Allora, se noi sommassimo complessivamente la spesa, includendo anche il socio sanitario, probabilmente ci accorgeremo che la spesa italiana qualche problema lo crea. Ma ripeto, secondo me qui bisogna mettersi a un tavolo e decidere quali regole costituzionali di fondo vogliamo, perché il sistema così è ingestibile. Sì, professor Antonini, molto chiaro. Vedremo che cosa succederà col prossimo Parlamento, perché quello attuale nemmeno è riuscito a mettersi d'accordo su una legge elettorale degna di questo nome, e quindi staremo a vedere. Insomma, qua parliamo di una riforma costituzionale, quindi forse qualcosa in più ci vuole. Marino, invece, io le voglio girare una sollecitazione che arriva da un ascoltatore via Twitter, Federico, che ci scrive: ma se le consulenze inutili sono concentrate in alcune regioni, quelle virtuose non avranno la copertura per tagliare i ticket. Mi sembra non male come nota. Beh, questo non è, non è così, perché io ho fatto alcuni esempi, ma nella nostra documentazione che abbiamo raccolto con la Corte dei Conti, purtroppo l'utilizzo di consulenze esterne avviene praticamente in tutte le regioni, anche in quelle diciamo più virtuose. Ma volevo fare un commento che mi sembra centrale all'intervento puntuale del medico che ha telefonato da una città del nord-est, dicendo appunto che è un medico di medicina generale e che vorrebbe che il ticket venisse triplicato, e nel suo ragionamento triplicare il ticket significa porre un argine alla richiesta di esami costosi, inutili, e ha detto perché solo io probabilmente, questo medico che ha telefonato, ha detto prescrivo circa 1000 euro di esami inutili ogni giorno. Ecco, io, questo lo dico da chirurgo, da medico, ho più fiducia nella valorizzazione degli altri medici. Io spero che l'argine agli esami inutili non venga messo dalle tasse e dallo Stato, ma dal buon senso e dalla capacità professionale dei tantissimi medici competenti che abbiamo nel nostro paese, che assieme agli infermieri e ai tecnici costituiscono l'ossatura di un servizio sanitario nazionale che ci è invidiato anche da paesi più ricchi. Poi ha ragione assolutamente il professor Antonini quando dice che ci sono differenze incredibili tra regioni e regioni e anche all'interno della stessa regione, però il concetto su cui io vorrei insistere è la valorizzazione dei nostri medici. Sì, Marino, il servizio pubblico che è diverso, perché guardi che alcune possibilità di salvare la vita delle persone il privato non le può offrire. Sì, Marino, io su questo ho una mia perplessità sulla quale poi le voglio chiedere chiarimento dopo la viabilità che avremo tra un attimo, e la mia perplessità è questa: insomma, ti chiedono la prescrizione di una visita specialistica di un determinato tipo, tu non gliela prescrivi e magari, insomma, succede qualcosa di brutto, che cosa fai? Insomma, quindi lei dice sì, va bene, mi fido dei nostri medici, e però se i nostri medici non si fidano perché hanno paura di finire in tribunale, perché il problema è anche quello. 9 in punto. Ignazio Marino, me lo scioglie brevemente il dubbio che ho posto prima della viabilità? Brevemente. Ha assolutamente ragione, è un altro dei punti critici che il Partito Democratico affronta nell'ampio programma di sanità che abbiamo pubblicato in rete, cioè quello delle prescrizioni che vengono chiamate medicina difensiva. Lo spiego rapidamente: se fino alla fine degli anni 90 in un grande pronto soccorso delle nostre città metropolitane era praticamente eccezionale chiedere ad esempio una TAC col contrasto per confermare la diagnosi di appendicite acuta, che si faceva esaminando il paziente e con la conta dei globuli bianchi. Oggi quasi nel 60-70% dei casi si chiede la TAC di conferma. Perché serve quella TAC? Serve nell'idea che forse c'è il rischio che si possa essere portati in tribunale e si vuole avere un documento che dimostri che la diagnosi è giusta. Ecco, noi pensiamo che le strutture sanitarie pubbliche e private debbano dotarsi di meccanismi assicurativi in modo che diminuisca la conflittualità tra medico e paziente, ma anche i medici, una volta che avranno questa ulteriore protezione che si voleva dare in questa legislatura e non ci si è riusciti, ma è un'urgenza per la prossima, però anche i medici dovranno fare la loro parte dedicando più tempo al dialogo, al colloquio con il paziente, che è un aspetto importantissimo nello stabilire quella fiducia di rapporto umano che è centrale nella cura di un paziente. Su questo ci sarebbe da fare una trasmissione intera su quello che succede anche negli ospedali da questo punto di vista, però non abbiamo tempo e non è il tema di oggi. Qualche ascoltatore, Domenica ci chiama da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Sì, Prego. Allora, io come ho detto, buongiorno. Allora, io non ho letto il libro, Domenica, però... Domenica, mi scusi, linea pessima, la sentiamo malissimo. Raffaele da Roma, buongiorno. Ah, buongiorno. È noto che la Regione Lazio paga con molto ritardo le prestazioni con ticket. Ora si sta configurando una concorrenza tra le ASL e le strutture convenzionate. Ad esempio, alcuni ospedali di eccellenza, come anche i policlinici, hanno istituito la tariffa privato-sociale, in alcuni casi più bassa del ticket. In queste condizioni, come la sanità del Lazio si potrà risanare? Cioè, lei dice, uno va dal privato, non va più dal pubblico perché praticamente costa uguale e quindi non, la sanità pubblica non incamera soldi, questo sta dicendo sostanzialmente? Esatto, per esempio un ospedale di eccellenza al sud di Roma ha istituito il privato sociale, non accetta più il ticket perché la Regione Lazio li paga con molto ritardo e per cui preferiscono incassare direttamente dal paziente e quindi praticamente la ricetta rosa non serve più. Raffaele ci chiama da Roma, buongiorno. Raffaele, buongiorno. No. Non ci sente Raffaele. Antonini, iniziamo a tirare le conclusioni perché poi manca poco alla chiusura della trasmissione. Prego. Ma guardi, io penso che qui non puoi combattere con un coltellino un carro armato. Per quello ritorno sull'idea della riforma costituzionale. Io penso che abbiamo un sistema che è ingestibile. L'ultimo esempio, appunto quello del privato sociale, mette in evidenza come certe situazioni tu devi affrontarle con un meccanismo di tipo commissariale. Marino lo sa, abbiamo dei debiti pregressi sulla sanità che sono una cosa spaventosa, che nel momento in cui parliamo di decine di miliardi di euro, quando questi incominceranno a emergere, siamo su una polveriera seduti, capito? Perché adesso stanno nascosti nei bilanci, nei residui attivi, nei residui passivi, ma mano a mano che si farà trasparenza, e l'Europa ce la chiederà sempre di più ce la chiederà, potendo fare anche analisi sui bilanci nazionali, noi ci renderemo conto che abbiamo messo in piedi un sistema che è ingestibile, che è diventato una polveriera. Se tu paghi i fornitori a 5 o a 7 anni è una cosa devastante, tu hai appunto alcune aziende che ormai in certe regioni come il Lazio o la Campania non investono più, non c'entrano neanche. Allora, questo va risistemato radicalmente e qui occorre però una scelta forte, cioè devi mettere in campo il carro armato, perché col coltellino il sistema non lo aggiusti. Io penso che il nuovo Parlamento, con tutti i limiti che lei ha detto, però o la politica dà un segnale forte, di uno spirito in grado di affrontare questi problemi, per esempio ridurre il numero a 1000 parlamentari che abbiamo, che sono assolutamente inutili, strutturare un modello tipo quello tedesco che funziona, di decentramento intelligente che funziona, io credo che sia una cosa fondamentale, è l'unico modo con cui si respinge l'onda dell'antipolitica, perché altrimenti se non si fa questo salto, ma io guardi, dopo 4 anni di lavoro sul livello del coltellino, cioè della legislazione ordinaria, sono arrivato alla conclusione che o si prende una decisione seria a livello costituzionale con assetto gestibile, oppure dalle macerie delle istituzioni che abbiamo in Italia, soprattutto in certe realtà, noi non riusciremo a rialzare la testa. Voglio chiudere con Marino però con un paio di domande che in parte derivano dall'ultimo intervento di Antonini e poi ce n'è una che avevamo lasciato in sospeso. Antonini, le parole di Antonini mi hanno ricordato, Marino, quello che disse 2-3 mesi fa l'attuale Presidente del Consiglio Monti, dice, l'uscente Presidente del Consiglio Monti, dice, la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale potrebbe non essere garantita. Insomma, un sistema sull'orlo del collasso. Voi condividete questa visione? Ma noi condividiamo il fatto, come ho detto prima elencando numeri, che ci siano degli sprechi che siano intollerabili, a cominciare dall'acquisto di materiali che abbiamo documentato con un'ampia inchiesta che ha differenze. Senatore, la domanda era secca, cioè condividete quello che dice Monti, perché da quel che ci racconta Antonini in effetti sembra proprio così, dice siamo seduti su una polveriera. Assolutamente no nelle soluzioni. La soluzione del, diciamo, del, dell'università infatti, Bocconi. Infatti era una domanda sull'analisi, era una domanda sull'analisi. Assolutamente no sul fatto che ci sia la necessità di rivedere i conti della sanità e gli sprechi, sì. Sul fatto che la soluzione sia rivolgersi al privato, assolutamente no. Ma non ho capito, ma lo vedete questo sistema sanitario a rischio collasso oppure no? Noi abbiamo le soluzioni per evitare che ci sia un collasso e che venga mantenuta un'offerta pubblica ai cittadini. Ci crediamo e abbiamo dimostrato con i conti come si può fare. E quindi c'è un rischio collasso, cioè se avete le soluzioni per evitarlo. Beh, certo, se lei continua a comprare il materiale di consumo di una sala operatoria in alcuni posti pagandolo l'800% in più, sicuramente rischia di collassare, come collasserebbe una famiglia se la pasta la paga 8 volte di più di quanto la paga un'altra famiglia. Un'altra famiglia con lo stesso reddito, certo. Ultima domanda, brevissimo, veramente, 30 secondi. Non sarebbe il caso, se si riescono a risparmiare così tante risorse, di destinarne un po' ai pagamenti alle imprese? Ci sono dei ritardi imbarazzanti, ci sono aziende sanitarie e locali che pagano a 5 anni addirittura, 3, 4, 5 anni. È una priorità sulla quale ha proposto delle soluzioni nei giorni passati anche Pierluigi Bersani, ed è una priorità perché quantificandolo parliamo di cifre enormi, di 40 miliardi che devono essere date ad imprenditori che hanno fornito servizi alle strutture pubbliche. E il fatto che ci siano dei ritardi nei pagamenti, in alcune regioni, in Campania si arriva addirittura a 900 giorni, determina poi anche un aumento esponenziale dei costi. Insomma, certo, se io devo vendere certo un materiale da sutura o degli aghi... Marino, purtroppo ci tagliano, se non la interrompo. Grazie a Filippo Aureggi, Franco Piantani, da Alessandro Marco Tulli. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Buona giornata. 9 in punto.